Giovedì 17 novembre del 2011, 87.900, la modulazione di frequenza, questa è Radio Onda Rossa. Visionari, l'appuntamento con il cinema ogni giovedì a partire dalle 14 fino alle 15. Per saperne di più, la scaletta la trovate sul sito della radio www.ondarossa.info, la voce trasmissioni, visionari per l'appunto, con indicati gli ospiti della puntata odierna, le uscite in sala di domani, venerdì 18 novembre, i nostri suggerimenti sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in televisione per quanto riguarda la settimana sul piccolo schermo e poi gli appuntamenti della settimana, il link per riascoltare la puntata precedente, leggere interviste e recensioni. Subito la nostra lunga carrellata di ospiti odierni, un attimo di pazienza. Ben ritrovato Raffaele Brunetti, ci sei? Sì, ciao Federico, buonasera a tutti. Allora, con te per parlare del tuo film che sarà in programmazione il 18 novembre alla 52esima edizione del Festival dei Popoli a Firenze, sto parlando di Mamma India. Allora Raffaele, di cosa si tratta? Sì, dunque il titolo è Mother India. Poi ho avuto un titolo italiano che è stato scelto dalla RAI per la messa in onda italiana, il titolo effettivo del film è Mother India. Dunque si tratta della maternità, e di infertilità, problema visto dal punto di vista delle donne indiane di diverse caste ed estrazioni sociali. E dunque l'India è uno dei paesi più popolosi della terra, quello che cresce più velocemente di tutti e affronta problemi di sovrappopolazione. Paradossalmente in quel paese c'è un boom delle tecniche e del business della fecondazione assistita, questo per una serie di motivi che noi analizziamo nel film, ma l'esempio dell'India è solo un esempio, insomma, molto lampante, senza filtri, di quello che è il rapporto tra la maternità, gli aspetti sociali della maternità. Abbiamo scelto l'India perché lì c'era un modo lampante per raccontare questa storia. Allora, parlavi prima chiaramente delle caste, ecco, che differenze sostanziali ci sono rispetto proprio all'argomento? Dunque, l'India è ovviamente un paese delle contraddizioni, un paese che cresce più velocemente di ogni altro, che ha uno sviluppo tecnologico e una crescita economica molto grande, allo stesso tempo è il paese dove convive con tradizioni millenarie e tra queste ovviamente il sistema delle caste è ancora molto, molto forte. Noi in questo film abbiamo deciso di vederlo dal punto di vista di tante donne. Abbiamo le donne infertili che vivono questo stigma sociale, questa maledizione di non avere figli, perché in India è ancora le donne senza figli vengono ancora spesso abbandonate dai mariti e sono costrette ad un'esistenza infelice. Allo stesso tempo, nello stesso film abbiamo le ricercatrici, abbiamo la direttrice, la proprietaria di cliniche per l'infertility clinic che stanno crescendo come funghi in India, che sta aprendo in tante zone dell'India e adesso sta aprendo anche nei paesi del Golfo e nei Caraibi. E abbiamo, come dicevo, abbiamo le madri surrogate, che sono un altro aspetto della questione, sono donne indiane povere che riescono, affittando i loro uteri, a cambiare il destino loro e della loro famiglia per mettersi l'educazione dei figli. In India c'è una grossa, diciamo paradossalmente, libertà di ricerca, libertà di sperimentazione, e questo è uno dei motivi che ha permesso lo sviluppo di questo business. Questo è dovuto anche a motivi culturali e religiosi. Nella religione indiana non c'è, ovviamente la religione induista non prevede divieti o proibizioni e ovviamente religione, etica e Stato sono assolutamente separati, ma addirittura nella mitologia e nella tradizione indiana ci sono esempi di fecondazione assistita. Balarama, che è fratello di Krishna, è nato grazie a un trapianto di embrione. Per cui diciamo modernità e tradizione nelle contraddizioni dell'India di oggi, è un paese fortemente al centro e simbolo della globalizzazione. Mm-hmm. Ora, Raffaele, volevo chiederti una cosa. Ecco, parlavi dell'India, cioè parliamo dell'India, che è uno dei paesi anche a crescita demografica esponenziale rispetto al trend, chiamiamolo così, tra virgolette, mondiale. E pensavo a una nazione come la Cina, in cui il controllo delle nascite è controllato. Esiste una dall'altro lato della medaglia, ecco, volevo affrontare la questione, e in India una politica in tal senso? Sì, esiste una politica di controllo delle nascite, che ha visto anche dei momenti molto bui ai tempi di Indira Gandhi, con le sterilizzazioni forzate, per cui anche l'India, come la Cina, ha vissuto questo e vive questo fenomeno, tant'è che è un altro fenomeno triste che si vive in India, è quello degli aborti selettivi. Siccome ci sono problemi legati all'eredità, alla povertà, alle braccia per lavorare, per cui molte famiglie non vogliono figlie femmine. Ci sono delle zone dell'India, e non sono le più povere, paradossalmente sono le zone ricche, perché il problema della dote è evidentemente un problema vissuto più dai ricchi che non dai poveri, che hanno niente da portare in dote, dove c'è il 70% della popolazione maschile. Questo sta creando dei grossi problemi. In India la diagnosi prenatale, cioè in India è vietato dire il sesso del nascituro prima della nascita, però ovviamente ci sono un sacco di sistemi per aggirare questo, e ci sono però questo orribile fenomeno degli aborti selettivi tra le caste più alte. Senti Raffaele, rispetto alla messa in onda su Rai 3 del tuo lavoro, volevo sapere anche che tipo di risposta hai avuto. Sì, dunque, il film è stato prodotto un po' con gli stessi partner del precedente Heavy India. Abbiamo Rai 3, abbiamo la televisione finlandese, abbiamo Al Jazeera English e dei fondi della comunità europea. Ora purtroppo in Rai c'è un sistema che deve prevedere le messe in onda del film nello stesso anno in cui viene firmato il contratto, poi viene firmato con ritardo, spesso il contratto viene firmato dopo la messa in onda, per cui c'è questo problema a volte che il film venga messo in onda prima di essere presentato, prima di andare ai festival. C'è un problema al quale anche i commissioning editor di Doc3 stanno lavorando, ma che sembra di difficile risoluzione. Per cui praticamente prima che il film fosse finito, noi siamo stati costretti a chiudere una versione breve, completamente doppiata in italiano, affinché andasse in onda. Il film è comunque andato molto bene. Come in genere la maggior parte dei documentari che trasmette questo piccolo slot, questa piccola isola della televisione pubblica che si chiama Doc3, che è un programma di Rai 3 che va in onda per il momento una quindicina di nottate d'estate, sì, torna a mezzanotte o dopo. Sì, nonostante sì, questo i film fanno mediamente l'8, il 9, il 10% di share, riprova che il documentario, a differenza di quanto si dice, funziona. Parliamo di documentari di creazione, tra l'altro trasmettersi in orari improbabili, però la risposta per il film è stata ottima, come per i film, diciamo, nella media più alta, ma anche gli altri documentari sono andati bene. Adesso speriamo che si riesca, anche perché si sono creati dei buchi in alcune reti, tra cui la stessa Rai 3 con la partenza di Serena Gandini. Speriamo che il programma riesca a avere più serate e a fare una politica anche di fidelizzazione del pubblico, che la gente si abitui a un appuntamento che possibilmente non sia solo di notte d'estate, per permettere al genere di affermarsi. Perché sì, nonostante le messe in onda notturne, nonostante le messe in onda saltuarie, nonostante non ci sia la possibilità di fidelizzare un pubblico, i risultati sono buoni. Il Doc 3 fa mediamente più di quello che faceva la Dandini, fa più di Linea Notte, però non si sa perché, paradossalmente, il documentario, forse perché è un'espressione indipendente, incontrollabile, continua a essere boicottato dalla televisione pubblica italiana. Guarda caso. Senti Raffaele, ti chiedo a questo punto che percorso avrà il tuo Mamma India, al di là del Festival dei Popoli, se c'è anche una possibilità di distribuzione. Sì, dunque, io venerdì sarà trasmesso al Festival dei Popoli, sarà proiettato alle 19.30, la mattina dopo io parto per Amsterdam perché il film è in concorso al LIDFA di Amsterdam, che è il più importante festival del mondo di documentari, e siamo molto contenti che anche questo, come Ring, è stato selezionato, solo una dozzina di film da tutto il mondo vengono selezionati per il concorso. E negli ultimi anni c'è sempre qualche film italiano, per cui nonostante la situazione direi drammatica del paese, c'è ancora chi riesce a produrre, i film vengono molto apprezzati. Per cui dall'IDFA già abbiamo avuto molte richieste di distributori e di distribuzione, perché lì funziona un po' così, questi sono grossi festival, ma sono anche collegati a mercati, per cui c'è una grossa visibilità, c'è una sezione che si chiama Doc for Sale, per cui abbiamo avuto già tante richieste di appuntamenti, di distributori o televisioni che hanno saputo che il film lo vogliono vedere, per cui speriamo bene di riuscire ad avere una distribuzione internazionale decente. Quella internazionale sembra proprio una buona finestra per i documentari italiani, a quanto sta emergendo insomma negli ultimi tempi, mi sembra buono questo. È purtroppo un po' l'unica ancora, certo, al momento, perché insomma il documentario italiano ha fatto dei passi enormi, e purtroppo quello che manca sono finestre e possibilità italiane, sia la televisione che le sale che gli altri spazi rimangono ancora purtroppo ed inspiegabilmente chiusi. Io credo si tratti principalmente di un problema di ignoranza, perché boicottare la produzione indipendente, credo si tratti principalmente perché purtroppo nelle televisioni oramai le persone responsabili non sanno di cosa stiamo parlando. Purtroppo il documentario in Italia è morto, moribondo da quasi 50 anni, sarebbe il caso di avere un ricambio. Io spero che questa esperienza di Doc 3, ma anche quelle dei festival, lo stesso Festival dei Popoli che ha un'affluenza enorme, la stessa attenzione che ci sta al documentario, possa finalmente far cambiare le cose anche in questo paese. Raffaele, tienici informati, nel frattempo in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie mille, un abbraccio, saluti a tutti. Ciao Raffaele, ciao. Raffaele Brunetti, regista del documentario Mamma India, in programmazione il 18 novembre, venerdì, domani, alla 52esima edizione del Festival dei Popoli a Firenze. Caro Andrea Loi, fa freddo, è inverno. Ci sei in diretta. Sì. Purtroppo sì, sono quelle che sei arrivati a una certa età, però poi si finisce a girare attorno a queste, capisci? Lo spread, il tempo. Lo spread del tempo. Banche, il differenziale, il BTP. Allora, con te per parlare del film di cui sei co-regista, il documentario La Promessa, mi era arrivata la comunicazione per mail, una tematica importante perché è racconta di una storia che è un po' la parabola di un'intera generazione tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, falcidiata dall'eroina. Ma sì, guarda, è proprio Paolo Pizzirani il nome di questo ragazzo, un grande talento per ogni sport, e soprattutto per il calcio, tanto che Arrigo Sacchi lo teneva tra i suoi diciamo prospetti migliori alla primavera del Cesena, che nella seconda metà degli anni 70 era veramente la fucina dei grandi dei futuri calciatori, pensiamo a Ricci, Sebastiano Rossi, tantissimi. Questo ragazzo, nato nel 63, muore di eroina nell'84, e gli anni 80 sono veramente, non solo per Bologna, un anno di strage, perché arriva questa sostanza in varie città italiane i ragazzi, a chi vuole fare uso per autocura, per curiosità, perché si approccia in qualche modo a questa sostanza, non la conosce. Di qui overdose, scambi di siringhe. Io eravamo a Verona con l'allenatore del Chievo, Mimmo Di Carlo, e lui stava in un paesino della provincia di Latina, diceva che anche lì erano un sacco di suoi amici, anche lui proprio è della stessa generazione, nato negli anni 60, prima di 60, lì l'eroina scorreva a fiumi e ha fatto una strage. Mm. Però ecco, poi insomma, il documentario ha promesso anche tanto altro, no? Certo, certo. E a questo proposito, Andrea, una cosa che mi è venuta sempre in mente è che, per esempio, negli Stati Uniti, nei ghetti afroamericani metropolitani l'eroina è stata usata scientemente e strumentalmente come strumento di controllo della popolazione afroamericana. In Italia sicuramente non è stato a quei livelli di scientificità, però sicuramente anche qui è stata usata strumentalmente come mezzo di controllo sociale. No, diciamo che in Italia hanno utilizzato le sostanze, hanno preferito utilizzare un genere di tricolo, te lo dice uno tristemente battezzato alla politica da Piazza Fontana, insomma, sì, aveva 19 sì. anni, sì, per la banca, quando esplose la bomba alla Banca Nazionale dell'Agricoltura, sì, che sicuramente ci siano politiche abnormi e assurde che oscillano tra la punizione e la vessazione, quando invece i grandi centri di spaccio vengono lasciati intoccati, questo sicuramente sì, è più proprio un difetto di sistema, insomma, al di là appunto di questo approccio ideologico e osceno al problema della tossicodipendenza delle sostanze, insomma, qui figuriamoci purtroppo con tutte le belle leggi che abbiamo, con un alfiere come Giovanardi, insomma, scusatemi la brutta parola, intanto stavo scappato un Giovanardi, scusate, scusate gli ascoltatori per la parolaccia. Un passato speriamo sepolto. Senti Andrea, dicevi che... speriamo, con molta terra, probabilmente per molta forza anche se di conficcare un paletto di frassino nel cuore. Sì. Senti Andrea, allora, dicendo della promessa, dicevi che anche molto altro, ecco, la figura di questo calciatore, ecco, non si limitava solo a quello. Cosa ti ha colpito in questa personalità? Guarda, mi ha colpito, intanto il fatto che tu tiri un filo come una radice, cioè che la radice ne vedi un pezzo che non sai dove andare a finire, no? Allora di lì siamo arrivati a parlare di musica con Riccardo Bertoncelli, perché questi ragazzi che si trovavano lì sentono prima, diciamo, le correnti più folk, no? Crosby, Stills, Nash, Young. Poi dice, quando si passa all'Eriz arriva la bufera, no? C'è poi un cambio d'epoca. E quindi c'è anche la musica che aveva anni 70 e 80, mi ha parlato Riccardo Bertoncelli, c'è il calcio di quell'epoca, mi ha parlato Gianni Mura, si parla di cinema documentario italiano con Alberto Crespi, insomma è un libro che accompagna il DVD, che è stato girato e diretto da mio figlio Giovanni, che è un giovane filmmaker, ha anche tutta una serie di... c'è cioè questa microstoria, una microstoria della tappa, una storia un po' più sociale, poi abbiamo veramente voluto mettere sugli obiettivi finalmente tutta una categoria di gente che vive nel calcio, ma non vive di calcio, in sostanza i volontari del calcio giovanile, quelli che vanno a accompagnare le squadre, che allenano senza guadagnare 10 lire, gli stessi ragazzi che si sobbarcano trasferte, partite a domenica mattina nel sangue per amore dello sport, c'è tutto questo mondo che in Italia ancora oggi muove milioni di persone, è sottorappresentato, che non esiste, ci fa solo il grande del mega circo, no? Sì. Diciamo che un'unghia incarnita di Osvaldo vale quanto la pratica sportiva vale di più della pratica sportiva di 500.000 ragazzi, insomma. Mm. Allora abbiamo dovuto veramente mettere un pochino sotto il riflettore questa realtà, spiegando tutto quello che è il cursus onorum del calcio, che è un cursus difficile, complicato, che va dai primi calci fino a giovedì, una primavera, e poi chissà, in cui, come dire, molti sono chiamati ma pochi diretti nel calcio professionistico, insomma, ecco, un po' dovuto vedere un po' il calcio non dalla parte del circo, insomma, un po' dietro le quinte. E tra l'altro questo ragazzo scriveva anche, se non ricordo male. Questo ragazzo, diciamo che scrive una lettera molto bella, cioè, lui da Bologna va a Cesena perché nel calcio entra praticamente in una scuola di alta specializzazione in calcio professionistico, come era allora le giovanili del Cesena nella primavera. Pensa cosa fa Sacchi, lo chiama in primavera anche se non aveva l'età per giocarci. Allora vigeva la regola che sotto i 16 anni non potevi, ma Sacchi lo vuole lì perché è troppo bravo, alto, capace di interdire, di lanciare, di segnare, insomma una specie di piccolo di Stefano. E lui lì, lontano dalla sua compagnia di amici bolognesi, un po' si perde, un po' si trova male con quel quotidiano fatto di piccole trasferte, di ragazzini, di 15-16 anni che parlano della discoteca, della musica dance, mentre lì in questa lezione, io sono qui che leggo Romeo e Giulietta di Shakespeare, non devo ritornare tra di voi, e disadattare, diciamo che la linea d'ombra, lui vede la linea d'ombra del passaggio al professionismo, ma non ce la fa a superarla, e chissà se sia un bene o un male, forse poteva essere un bene per lui, se non avesse incontrato l'eroina in quel periodo, magari era sarebbe stato un bene, chi lo sa. Allora, il tuo lavoro è diventato un documentario che insieme a un libro stai portando in tournée, in giro per l'Italia, nelle occasioni di presentazione. Ecco, come sta andando questo excursus? Allora, sono stati al Pisa Book Festival, è andata bene, sono stati a Verona, stasera, domani saremo a Piacenza, saremo anche a Roma, il 12 gennaio all'Eurovia Rinascita, ma c'è molta attenzione, faremo appunto il classico giro delle librerie, Fnac, Feltrinelli, eccetera, eccetera, Rinascita, e dopo cominceremo ad andare nelle società, le società di calcio, dove alcune sono 300-400 ragazzi, dove appunto si tratta, è un po' per modo per far passare un discorso, diciamo, un po' più smagato, un pochino più veritiero su quello che è il calcio, insomma. Ecco, anche per i genitori, per i ragazzi. Ecco, visto che sei un appassionato del pallone e visto che hai affrontato una storia di quel periodo, ecco, come è cambiato in meglio e in peggio il mondo del calcio rispetto all'oggi? Il calcio come fatto agonistico in sé, per fortuna, è cambiato poco, nel senso che rimane uno sport appassionante, molto intuitivo, facile da capire, che ci trascina dietro tutti questi connotati, dico fra virgolette, bellicosi, di sfida, di invasione del campo altrui, sono tutti questi caratteri che antropologicamente si potrebbe parlare all'infinito. Della tribù del calcio, no? Ma perfettamente. Sì. Attorno al calcio ha proliferato tutta una serie di parassiti, non parlo tanto degli agenti dei calciatori, ma gli uffici stampa, il sottufficio stampa, l'accompagnatore, questi parlo del calcio di vertice, l'amico in debito, quello che sfrutta, l'amico del procuratore, i vari uffici di stampa, un giornalismo sportivo che nei peggiori casi è un giornalismo sportivo che suona la gran cassa o tace le cose scomode, c'è tutto una specie di sottocirco rispetto al circo maggiore che ha portato il calcio continuo così a diventare uno sport delle volte quasi stabile, come se il calciatore che viene sfiorato a un ginocchio si porta le mani alla faccia perché magari così fa dare l'ammunizione all'avversario, eccoci, poi non parliamo di spalti, di fenomeni. L'Italia è anche stadi fatiscenti e mai rimessi in ordine, e anche calcio con cornici di violenza, quando invece poi dopo si dimostra di nuovo stadio a Torino, ci puoi andare allo stadio anche senza barriere, senza che succeda nulla di che. Ma quindi il calcio è nella sua essenza per poter essere immutato, e peggiorato tutto quello che ci sta attorno, ma perché? Perché lo devi spremere all'infinito, no? Cioè, con i diritti televisivi che hanno spopolato gli stadi, per esempio, ma questo è il calcio di oggi. Senti Andrea, in rete, a proposito di similitudini di linguaggio calcistico, in rete, su internet, dove si possono avere informazioni rispetto alla promessa? Basta visitare la promessa, Andrea e Giovanni Aloio, se ne hanno tutte le cose. Benissimo. Tutti i ragazzi possibili, il libro, come devo dire, che è pubblicato da Melda Corvino Editore, Promo Music, distribuito nazionalmente. E lo si può anche ordinare via web nei canali soliti, Amazon, altri ormai libri sono reperibili in qualsiasi modo. Allora un abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci alla prossima. Un saluto a tutti voi, grazie per la chiamata e a tutti gli ascoltatori. Buon pomeriggio. Ciao Andrea, ciao. Ciao. Andrea Loi, co-regista del documentario La Promessa. Questa è Visionari su Radio Onda Rossa, ogni giovedì dalle 14 alle 15. Vi rimando per le informazioni al sito della radio www.ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, dove troverete tutto quanto in merito alla trasmissione di oggi. Siamo in collegamento con Francesco Cavaliere, regista del documentario Resistenza, con la R iniziale tra parentesi, che sarà in programmazione oggi alla quarta edizione del Festival dei Diritti Umani di Napoli, in pieno svolgimento, e sarà poi a Visioni Fuori Raccordo qui a Roma il 26 novembre del Festival dei Diritti Umani. Ci occuperemo tra poco, sentiremo uno dei selezionatori, mentre per Visioni Fuori Raccordo ne parleremo la prossima settimana. Francesco, ci sei? Sì, sì. Eccoci, intanto ben trovato. Grazie, buon pomeriggio, buon pomeriggio agli ascoltatori. Allora, in due settimane due belle vetrine per il tuo lavoro. Ecco, volevo sapere, allora, per chi ci ascolta, chiaramente, diciamo di cosa si tratta a partire da questo titolo, Resistenza. Resistenza racconta 8 storie di resistenza civile da Scampia, un quartiere famoso, soprattutto in modo negativo, perché è stato raccontato parecchio dai media e anche in Gomorra, insomma, di Matteo Garrone. Il documentario mira a raccontare una realtà diversa di persone che cercano di fare qualcosa nel loro piccolo, ognuno contro una situazione davvero insostenibile, e quindi ecco, è un po' quello di guardare qualcosa di diverso che è presente a Scampia e che naturalmente ha mille difficoltà. Ecco, rispetto al progetto iniziale, con che idea è ripartito e cosa ti ha sorpreso in positivo nella realizzazione del lavoro, nel venire a contatto con queste 8 storie? Allora, innanzitutto io non ho scritto una sceneggiatura. Certo. Spesso mi chiedevano appunto di come strutturare il documentario, e la cosa mi sembrava abbastanza, questo è il mio primo documentario, e mi sembrava molto strano dover scrivere qualcosa prima di aver visto i protagonisti, di averli incontrati, e soprattutto poi io non sapevo cosa sarebbe successo, quindi è stato un lavoro soprattutto di montaggio dopo le riprese, che abbiamo costruito un po' tutta la struttura, lo scheletro del documentario. Io conoscevo marginalmente la realtà Scampia perché sono della zona, sono di Pozzuoli, anche se poi non c'ero mai stato, perché Scampia se non conosci qualcuno, hai degli interessi o in particolare non è un quartiere che vai a visitare, e ho scoperto che, contrariamente a quello che avevo sempre sentito, ci sono tantissime persone oneste che si svegliano la mattina presto per andare a lavorare e che però subiscono un po' questo marchio di appunto di abitanti di Scampia, dove è un quartiere interamente controllato dalla camorra. È normale che gran parte delle attività ruotano attorno agli affari illeciti della camorra, però molte persone non hanno un'alternativa per andare avanti, per portare avanti la famiglia. Purtroppo la camorra è l'unica alternativa che hanno, insomma, quindi lo spaccio di droga, i ragazzini che fanno le vedette, agli spacciatori, tutta, insomma, una serie di opportunità che purtroppo la camorra offre e che la società non offre possibilità, insomma. Mm-hmm. Senti, proprio in base all'esperienza del tuo documentario, secondo te quale può essere una strada che permetta il riscatto al sud per i giovani rispetto al mondo della criminalità organizzata? Beh, quello che dicevo prima, bisogna innanzitutto avere un'alternativa. La prima alternativa è il diritto al lavoro. Senza questo presupposto è veramente difficile che il Sud abbia la possibilità di riscatto. Siamo un paese che ha tantissime risorse, un paese che potrebbe vivere tranquillamente solo di turismo. Purtroppo, come possiamo constatare, tutto questo ben di Dio che ci è stato dato dai nostri antenati, pian piano sta sparendo, lo stiamo distruggendo. Non siamo un paese che ha problemi di risorse, purtroppo non c'è una visione, una programmazione, e i risultati sono questi, insomma. In generale noi siamo un paese che spreca le immense possibilità che ha. E a Scampia, ecco, la prima cosa che manca è il lavoro. Manca una cultura della legalità, manca la possibilità di mandare i figli a scuola, una serie di cose che appunto in qualsiasi paese sono dei diritti acquisiti. Mm-hmm. Senza di quello non credo che le cose cambieranno. Senti, ecco, e al di là della cecità dell'amministrazione e della politica in senso più generale, ci sono anche esempi virtuosi di organizzazione dal basso? Allora, a Scampia ci sono tantissime realtà, diciamo, di associazioni, di volontariato. Contrariamente a quanto si pensa, c'è una grande attività. Naturalmente sono poco sostenute. Uno dei protagonisti del documentario ha fondato un'associazione di resistenza anticamorra. Loro hanno chiesto più volte una sede che tra l'altro è una scuola abbandonata, quindi soggetta a vandalismo, e naturalmente non hanno chiesto più volte quella sede o altra, un'altra in particolare, e gli è stata sempre negata. Naturalmente questo non è un caso, gli amministratori locali sono legati a doppio filo con la criminalità, che a loro volta controlla i voti sul territorio. E quindi, ecco, una realtà, cioè di realtà, ma più di una ce ne sono, purtroppo devono combattere con delle difficoltà enormi, e quindi poi i risultati di conseguenza non sono come potrebbero essere. Allora, il tuo documentario, che tra parentesi ha vinto anche l'Est Film Festival di Montefiascone, volevo chiederti dove... Abbiamo vinto anche a Sezze il Documenta Film Festival. Benissimo. Questo festival a Sezze, in provincia di Latina. E dove è possibile in rete avere maggiori informazioni rispetto a un calendario di proiezioni o a possibilità di distribuzione? Abbiamo una pagina Facebook, appunto, che se si digita Resistenza, sempre con la R tra parentesi, è una pagina di film, e lì noi costantemente mettiamo le informazioni sulle proiezioni ai vari festival. Quella, diciamo, è quella più aggiornata, insomma. Benissimo. Allora, Francesco, un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie a voi. Un abbraccio, ciao. Arrivederci. Francesco Cavaliere, regista del documentario Resistenza, con la R tra parentesi, in programmazione oggi alla quarta edizione del Festival dei Diritti Umani di Napoli, con cui ci metteremo in collegamento tra poco, e il 26 novembre sarà a Visioni Fuori Raccordo qui a Roma, ma di questo ne parleremo la prossima settimana. Il nostro Massimo Vattani, ben ritrovato, caro. Ciao Federico, come va? Bene, tu? Tutto bene, grazie. Allora, con te di tanto in tanto ci si sente, questa volta per un progetto molto interessante, per l'apertura delle iscrizioni della prima edizione del CineDeaf, il Festival del Cinema Sordo di Roma, che sarà al Nuovo Cinema Aquila dal 3 al 5 maggio del prossimo anno. Raccontaci un po' di cosa si tratta, Massimo. Sì, diciamo, è un incarico nuovo, diciamo, che ho accettato anche con molta passione e devo dire anche con una buona dose di modestia, visto che si tratta comunque dell'applicazione della nostra passione su dei soggetti e su una cinematografia di cui io personalmente ho sempre saputo molto poco e che non ho seguito con particolare interesse, ma come spesso accade poi, diciamo, questo mondo abbastanza largo dei documentaristi, di coloro che si interessano di cinema, fa sì che poi comunque ci sia un legame fra tutto. E ovviamente, diciamo, è il primo festival del cinema sordo qui a Roma, anche se va detto che precedentemente comunque un lavoro molto buono era stato svolto da questo gruppo che opera a Milano e a Roma, che si chiama Cinema Senza Barriere, che aveva precedentemente iniziato a sottotitolare i film per sordi, che come saprai hanno questa particolarità di non limitarsi soltanto alla traduzione del testo, ma sottotitolare, segnalare anche quelli che sono rumori d'ambiente, che in qualche caso sono assolutamente fondamentali alla possibilità di assistere in maniera completa ad un film. Massimo, scusa se ti interrompo, Cinema Senza Barriere mi sembra riguardasse anche i film per i non vedenti. Sì, esatto, c'era era un'applicazione sulle che riguardava appunto queste due categorie, però diciamo in questo caso invece la particolarità è che si tratta proprio di un vero festival riservato in qualche maniera, anche se c'è una sezione di cui parleremo più avanti, agli utenti, riservato ad opere realizzate da registi e da registe sordi. Sì. Devo dire con grande sorpresa ho potuto verificare, diciamo, l'enormità dei lavori che circolano in Italia e nel mondo. Dico nel mondo perché se per Roma l'esperienza del CineDeaf si tratta appunto della prima edizione, della prima esperienza, invece ci sono alcuni festival di Deaf Cinema abbastanza affermati in Europa e nel mondo. Il più importante è quello di Washington, diciamo che è un po' il faro, la guida di quelli che sono tentativi di produrre questo tipo di cinema. Sì. Dicevo, e è questo anche un po' il motivo di questo nostro contatto odierno, altrimenti, come potrai ben comprendere, i sordi hanno un loro canale di informazione basato principalmente sulla lingua dei segni, il linguaggio LIS. C'è però una parte, una sezione del festival che è assolutamente aperta a lavori di registi udenti che hanno in qualche maniera lavorato, ha avuto a che fare con la sordità, col suono in generale, e anche qui, diciamo, potrebbe sembrare un'operazione abbastanza complicata, mentre tantissimi registi anche famosi, magari alcuni di cui condividiamo la passione, per esempio Amir Naderi ha realizzato una trilogia sul suono, il film più importante si chiama Sound Barriere, realizzato con un giovane, con un bambino sordo, realizzato a Los Angeles qualche anno fa. Sarà quindi la possibilità di ospitare anche lavori di registi utenti e a fornire appunto questo mix che è anche la situazione più adatta per rendere appunto un meccanismo di vicinanza fra registi sordi e registi udenti, e di conseguenza anche fra spettatori e spettatrici sordi e invece coloro che possono udire. Si tratta appunto di un lavoro, di un incarico che diciamo è veramente molto appassionante, in cui cerco di dare il mio contributo a quella che è la nascita di uno staff che possa poi successivamente dirigere o dividersi i compiti dell'organizzazione di un festival per conto proprio. E in qualche maniera questo doppio è un'esperienza assolutamente nuova, professionale, e quindi anche di relazioni in un mondo, con tutta la curiosità normale quando ti approcci ad un mondo che conosci. Certo. Massimo, a questo punto dacci riferimenti per l'invio del materiale, per le iscrizioni. Sì, allora diciamo con questa sempre particolare attenzione a considerare che questo è un messaggio, una comunicazione per i studenti, si possono inviare lavori appunto per questa sezione dal 1 novembre fino al 31 gennaio e non oltre. Tutte le informazioni possono essere appunto andando sul blog del festival, che è cinedef@issr.it, Istituto Statale Sordi di Roma. E la stessa informazione invece per le informazioni ci si può rivolgere a desinfo@issr.it. Il festival si svolgerà appunto il 3, il 4 e il 5 maggio, sarà anche un'occasione, diciamo questo piccolo particolare, c'è una percentuale di popolazione sorda in Italia assolutamente elevata, l'1 e il 2% addirittura dei bambini, e quindi l'ultima cosa che vorrei dire è che i sordi appunto considerano questa, non si considerano assolutamente disabili, ma sono quasi in forma vicina, molto vicina alla lotta, alle lotte di autodeterminazione di quei popoli che lottano per esempio per il riconoscimento della propria lingua, come è stato per i Paesi Baschi o per tanti altri paesi. In questo caso tutti i loro sforzi e tutta la loro attenzione e la grande produzione culturale che realizzano appunto va in questa affermazione di una lingua propria, che è il linguaggio LIS, il linguaggio dei segni. Avremo poi occasione, penso, di sentirci. Sicuramente, Massimo. E grazie dell'ospitalità, Federico. Un abbraccio e a risentirci presto. Grazie, Federico. Ciao, buona notte. Ciao. E questo era Massimo Vattani per l'apertura delle iscrizioni della prima edizione del CineDIF, Festival del Cinema Sordo di Roma, che sarà il nuovo Cinema Aquila dal 3 al 5 maggio del 2012. Bene, torniamo in diretta con Visionari, parliamo con Silvia Savorelli in merito a un lavoro che si intitola Così siamo tutte, scelte di donne, un documentario che sarà presentato domani 18 novembre a Terni. Intanto ben ritrovata Silvia. Ciao, ben ritrovata a tutti, ciao Federico. Ci eravamo sentiti la prima volta per La stanza delle donne, un altro tuo lavoro, sì, sempre al femminile, questa volta di cosa si tratta? Sì, questa volta è una cosa un po' diversa, nel senso che questo è sempre un documentario che parla di donne, però è un documentario che nasce da un laboratorio di immagini filmiche e nasce con un gruppo di lavoro di ragazzi, circa 14, nato all'interno di un progetto voluto fortemente dal Comune di Terni, in particolare dall'assessorato alla cultura e dalla biblioteca comunale, con lo scopo di ricercare e di raccogliere materiale d'archivio familiare, ma di raccontare poi la storia, diciamo, la storia straordinaria di donne normali, che hanno vissuto a Terni un'esperienza di vita che è a cavallo, diciamo, tra gli anni 40-50 fino a una ragazza di 30 anni di adesso. Quindi sono le scelte di queste donne, che sono scelte di vita, a partire, questo racconto è soprattutto fatto a partire dai filmini familiari e dalle foto. Oh, immagino che rappresentino un po' tutte le classi sociali, che esperienze avete raccolto e quante ne avete raccolte? Beh, è stato un lavoro abbastanza lungo, perché siamo partiti quasi un anno fa per cercare di trovare dei personaggi, di raccogliere una serie di testimonianze, e ci interessava soprattutto, diciamo, la non straordinarietà, e quindi da una signora che ha vissuto negli anni 40 e 50, che ha fatto una scelta che per quegli anni forse appunto era straordinaria, che invece di decidere di fare la sarta per avere indipendenza economica, decide di fare la commessa, e a partire da queste sue scelte, con la nascita dei figli, poi purtroppo con la morte del marito, ha dovuto, come dire, cambiare un po' nel corso della sua vita e diventare imprenditrice, quindi una donna molto coraggiosa che da sola ha affrontato la vita, fino alla ragazza giovane di 30 anni che dopo una serie di lavori precari, anche portando avanti anche 8 progetti contemporaneamente, è riuscita a, come dire, a concretizzare il suo sogno di lavorare dentro una cooperativa che si occupa di educazione con i bambini e di essere addirittura assunta, ecco, questa per lei è anche l'eccezionalità, all'interno di questa cooperativa, e di decidere anche di diventare madre. Quindi in questo percorso molto sfaccettato e variopinto ci sono delle immagini che abbiamo trovato in Super 8 degli anni 60, bellissime, che raccontano il territorio di Terni, non solo a partire dalle acciaierie, perché Terni soprattutto è conosciuta per le fabbriche, per le acciaierie, cioè soprattutto come polo industriale, ma a partire dalle donne che hanno vissuto, diciamo, la vita economica e sociale e le lotte di quegli anni da un altro punto di vista. Ecco, questo ci interessava. Oh, volevo sapere il titolo che avete scelto, da dove nasce Così Siamo Tutte? Ma nasce da una discussione lunga con questi 14 ragazzi studenti che hanno lavorato moltissimo e sulla progettazione, la ricerca, le interviste, realizzando loro le riprese, montando il film, coordinati da Grazia Morace e da Luana Conti, ma nasce soprattutto da un'idea precisa, soprattutto di una delle ragazze che l'ha proposto, che è quella di, da una parte, di raccontare la leggerezza intesa un po' come alla Calvino, insomma, di raccontare la leggerezza di queste donne che hanno fatto scelte importanti, però sono donne che poi rappresentano un po' tutti noi, rappresentano le nostre madri, le nostre nonne, ma anche le nostre amiche, ecco, quindi rappresentano un po' l'universo femminile, ecco perché Così Siamo Tutte, perché c'è la leggerezza da una parte, dall'altra il tentativo di voler rappresentare lo sfaccettato mondo delle donne. Oh, dalle origini di questa storia, cioè da quelle storie di qualche decennio fa fino a quelle attuali, ecco, come sono cambiate le scelte delle donne? Bella domanda. non è semplicissimo, ma da una parte credo, come dice una delle protagoniste, ci sia più consapevolezza, cioè più consapevolezza e per quello che hanno vissuto le nostre nonne, le nostre madri. Dall'altra c'è anche però la voglia di resistere e di cercare anche delle strade nuove, che magari sono anche strade un po' inconsuete. Da una parte appunto il lavoro non è l'unico aspetto che può caratterizzare la donna, ma ci sono anche altre scelte, che può essere da una parte la scelta della maternità, dall'altra anche la scelta di un percorso di vita che cambia, proprio perché cambia, perché si incontrano appunto delle strade diverse, poi però c'è anche la voglia appunto di resistere e di voler raccontare questo. Molto bello, secondo noi, c'era anche l'aspetto di raccontare la quotidianità, anche a partire da appunto le manifestazioni che ci sono state delle donne recentemente, quindi ci sono sia manifestazioni di donne degli anni 70, anni 80, che hanno caratterizzato in qualche modo il femminismo, che queste nostre protagoniste hanno vissuto, come dire, non in prima persona, ma aderendo idealmente, ma anche alle manifestazioni di oggi, dove invece le ragazze stesse che hanno partecipato al laboratorio erano tra le protagoniste. Quindi c'è da una parte la consapevolezza, credo, e dall'altra anche la voglia di sperimentare strade nuove. Oh Silvia, così siamo tutte, scusa, scelte di donne, domani sarà presentato, sì, a Terni, dopodiché? Dopodiché inizieremo a girare, vediamo di promuoverlo in giro, e penso che una proiezione la faremo sicuramente a Roma, e ti aspettiamo, che dici? Certo, ne parleremo anche qui in radio, chiaramente. Sì, certo. Va bene. Intanto grazie. Grazie a te, un abbraccio e a risentirci presto. Grazie Federico, a presto. Ciao Silvia. Ciao. Silvia Savorelli, regista di Così Siamo Tutte, scelte di donne. In collegamento con Angela Bulleri, co-regista del documentario Io Parlo Italiano, che sarà in programmazione domenica 20 novembre alla Casa del Cinema qui a Roma. E benvenuta Angela. Buongiorno a tutti. Tutto bene? Sì, tutto benissimo. Aspettiamo con ansia domenica. Senti, all'interno del Mad Film Festival, o sbaglio? Sì, è all'interno del Mad Film Festival, fuori concorso, perché è un documentario breve, sì. E quindi oltre ai documentari in corso, quelli internazionali, ne hanno scelti 5 di cortometraggi, tra cui il nostro. Allora, io parlo italiano, cosa sta a significare? Io parlo italiano racconta la storia di 3 immigrati che sono venuti in Italia, che hanno personalità totalmente opposte, e sono venuti e imparano tutti e 3 l'italiano in una scuola, in un centro che si chiama ESC, e questi volontari gli insegnano l'italiano per aiutarli a integrarsi nella società italiana. Oh, com'è nato il progetto? Il progetto inizialmente un po' per caso, ma da subito ci siamo appassionate ai nostri testimoni e da lì tramite anche l'Accademia del Cinema e della Televisione Act Multimedia, durante questo corso di regia siamo riuscite così a realizzare questo documentario, con la supervisione poi di Gianfranco Pannone e Mario Balsamo, che erano i nostri docenti del corso. Allora, parlavi di 3 personalità molto differenti, ma cosa accomuna queste 3 storie? Questi 3 immigrati, diciamo, si accomunano innanzitutto proprio per il fatto che sono stranieri in Italia e per la loro voglia di imparare, per la loro determinazione nei loro obiettivi. Sono in realtà molto diverse come le loro personalità, ma anche come sociale, come età, come tradizione, cultura, nazione, ma poi all'interno di questa scuola si è creata una sorta di amicizia e di legame che va al di là delle diversità, e quindi alla fine hanno creato un gruppo unico. Senti, che idea si sono fatti del paese in cui si ritrovano a vivere? Appunto, essendo loro molto diversi, hanno un'idea anche in questo caso diversa. Però quello che a noi ci piace mettere in evidenza è soprattutto lo spirito positivo con cui sono venuti in Italia, nel senso che non è una storia, le storie di immigrazione, di sofferenze, di dolore. Loro vivono abbastanza la giornata con spensieratezza e appunto positività, ed è questo proprio che ci ha stupito in loro, è quello che noi dobbiamo cercare di rendere al meglio nel documentario. Senti, dopo questa presentazione al Mad Film Festival, cosa succederà di questo lavoro? E poi se ci sono anche su internet, se avete un sito di riferimento per avere maggiori informazioni. No, momentaneamente non abbiamo ancora un sito, però questo documentario l'abbiamo mandato anche ad altri festival, adesso dobbiamo vedere quale sarà il responso. E niente, noi speriamo che si diffonda abbastanza, poi vedremo come andrà, insomma. Comunque per adesso pubblicizziamo per domenica e poi vedremo. Allora, dacci gli orari per la giornata di domenica alla Casa del Cinema qui a Roma. Allora, domenica alle 8:30 alla Casa del Cinema, sala Kodak, la proiezione di Io parlo italiano. Quindi chiaramente le 20:30 ci sarete anche voi presenti, immagino. Sì, verrà presentato appunto da Mario Balsamo e Gianfranco Pannone, e saremo presenti io, Angela Bulleri ed Ezra Nazzeli Beckaslan, verrà presentato appunto da noi Etane 4. Benissimo, allora in bocca al lupo, alla prossima. Va bene, grazie mille. Ciao Angela. Ciao. Angela Bulleri, regista, co-regista del documentario Io parlo italiano. Bene, sul nostro percorso ritroviamo ancora una volta Ginella Vocca. Pronto, ci sei? Bentrovati, ci sono, bentrovati. Bentrovata a te. Allora, per quanto riguarda la 27esima edizione del Mad Film Festival, di cui abbiamo accennato poco fa, perché abbiamo parlato di un lavoro che sarà fuori concorso, Io parlo italiano, questo è il titolo, all'interno del festival, che si svolgerà tra l'Auditorium della Conciliazione e la Casa del Cinema dal 19 al 27 novembre. Ne parliamo con te, che sei la direttrice. Allora Ginella, 27 edizioni sono un bel numero. Guarda, mi sarebbe tanto di... Allora Ginella, hai cominciato a parlare e sei sparita subito. No, ma eccomi qui, ritornata. Oh. E dunque, dicevo, mi piacerebbe tanto se fosse già la 27esima edizione. In realtà è la 17esima edizione. e stiamo comunque entrando nella maggiore età. Nella maggiore età, benissimo. Vi ho aggiunto 10 edizioni così come se nulla fosse. Però potrei dirti anche che la forza e il lavoro che c'è in queste 17 edizioni, forse sì, forse in realtà non è vero, sono già 27. Valgono quasi doppio, insomma. Esatto. Allora, una vetrina importante perché si parla di cinema dell'area mediterranea, immagino, soprattutto penso a livello documentario, la primavera araba avrà una forte presenza. Assolutamente sì, Mad Film è un festival che sta a cavallo, come mi piace pensare e immaginare, della storia, del contemporaneo. In realtà quest'anno il cavallo è una specie di tigre, quindi non è un cavallo, però è successo di tutto quest'anno, diciamocelo. E siamo riusciti a rimanere live portando qui a Roma una serie di testimonianze, di opere tra documentari e lungometraggi che raccontano quello che è stato un anno che ha avuto come sicuramente un apice nella primavera araba, per cui non soltanto film ma anche autori che saranno qui a raccontarci dal vivo questa esperienza. Ginella, quante sono le opere che proporrete, da quanti paesi e da quali paesi? Guarda, sono tante, anche quest'anno io ho cercato di contenere, ma è una redazione straordinariamente efficiente e appassionata, per cui sono circa 100 film, considerate una percentuale di 90 film del tutto inediti, tra lunghi, corti e documentari, la maggior parte in anteprima e ai noi anteultima. E nella sezione per esempio dei lungometraggi in concorso quest'anno avremo 12 titoli, non i soliti 10 ma 12, perché erano così belli che non siamo riusciti a escluderne due, e i paesi rappresentati sono 40. Beh, sì, insomma, niente male veramente. Ma poi abbiamo anche delle bellissime giurie, per esempio la giuria dei lungometraggi ha dei giurati interessanti e siamo riusciti a rispettare ancora una volta la rappresentanza di vari paesi. Vi ricordo che i paesi ospiti d'onore sono appunto Tunisia ed Egitto per la sponda sud e Romania per la sponda nord, perché ci piace sempre mettere in relazione l'Europa e il Mediterraneo, quasi a cercare punti di contatto, linguaggi condivisi che possano aiutarci a comprendere il presente. Vi siete mossi? Quindi vi dicevo... Sì, dimmi. La giuria, per esempio, abbiamo Daniela Arbit, che è una regista libanese che è riuscita ad affermarsi in Europa, giovane e bravissima, la regista di Beirut Hotel, per capirci. E poi avremo Ahmed Afiene, che è tunisino ma è un attore che ha trovato successo qui in Italia. Poi avremo Ferra Ilmaz per la Turchia, l'icona di Ferzan Oftetek. E poi avremo un attore rumeno notissimo nel suo paese, Cristian Paduraru, e avremo un regista israeliano, Shlomi Elkabetz, che è un autore interessantissimo, era presente anche un suo film a Venezia quest'anno, Testimoni, insomma una giuria che penso con cui sarà divertente e interessante lavorare. In qualche modo vi siete mossi anche per aree tematiche all'interno delle sezioni? Sì, tu insomma va considerato sempre che Mad Film ha un tema principale, che è quello del dialogo interculturale e della conoscenza delle culture dell'area del Mediterraneo e della relazione che c'è tra Europa e Mediterraneo, quindi il tema dell'immigrazione è uno dei nostri temi forti, però ne abbiamo scovati in alcune linee tematiche, si sono definite con la qualità e con il contenuto dei film, e quindi avremo sicuramente un focus sul femminile nel Maghreb, abbiamo un focus su una zona del Mediterraneo di cui poco cinematograficamente si parla, che sono i Balcani. Sì. E avremo anche degli spunti tematici forti come il tema della pedofilia, con un film meraviglioso austriaco, che è un'anteprima nazionale, e un giallo pazzesco bellissimo, e mi è sfuggito la terza cosa che volevo dirti, e poi anche una veloce incursione sul tema dell'omosessualità dei gay con una commedia brillantissima, Let My People Go, che sarà possibile vedere domenica 27 a Casa del Cinema. Benissimo, allora Ginella, 17ª edizione del Mad Film Festival, immagino anche che avrete ospiti diversi autori delle opere che presenterete. Guarda, avremo una quantità di registi quest'anno che volevamo contenere il festival, siamo entusiasti, c'è stata un'adesione straordinaria, per cui tutto il concorso è rappresentato da tutti i registi, poi avremo vari autori tra i documentaristi, specialmente tunisini, e poi abbiamo un mito vivente qui da noi al festival, che è Omar Sharif. Benissimo. Ragazzi, Omar Sharif, cioè io vi dico soltanto che per girare Lawrence d'Arabia sono stati 2 anni nel deserto, cioè io vorrei ricordarvi la figura di questo attore straordinario che sarà qui con noi, il suo garbo, la sua eleganza, la semplicità con cui ha accettato questo nostro invito, l'adesione al progetto, sono tutte cose che ci hanno fatto davvero molto molto bene. Benissimo, allora Auditorium della Conciliazione e Casa del Cinema dal 19 al 27 novembre, Ginella un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie, grazie, venite al cinema, venite a vedere questo grande sforzo. A presto, a grazie. Presto, ciao. Oh, ci siamo riusciti in extremis a metterci in collegamento con Antonio Borrelli del comitato di selezione della 4ª edizione del Festival del Cinema dei Diritti Umani in pieno svolgimento a Napoli, è iniziato l'8 e andrà avanti fino al 19 novembre, ben trovato Antonio. Buongiorno a tutti, saluto. Tra l'altro, dicendoti, proponendoti questa chiacchierata su Radio Onda Rossa, tu hai accolto l'invito con delle belle parole, insomma. Sì, per me, l'ho detto, è un onore e un piacere intervenire in trasmissione su questa radio storica. Benissimo. Allora, un festival importante, direi, quello dei diritti umani. Raccontaci un po' intanto della sua storia, visto che siamo alla 4ª edizione, e come è strutturato. Ma è un festival di cinema un po' particolare, non classico, perché nasce dall'incontro di una rete di associazioni che opera a Napoli e in provincia, e che tende a cercare di dare visibilità innanzitutto al lavoro di queste associazioni e quindi a quello che accade qui a Napoli, e poi ovviamente la scelta della tematica dei diritti umani è una scelta importante in una città come Napoli che presenta contraddizioni fortissime. Il cinema è lo strumento che utilizziamo per cercare di parlare alla città, alla gente, e diciamo un po' l'ambizione all'Italia, al mondo, questa è l'idea. E il festival, un'altra cosa importante, nasce sulla spinta di un analogo festival argentino, che è di Buenos Aires, sempre di cinema e dei diritti umani, con cui abbiamo un gemellaggio dalla nostra nascita praticamente, e c'è uno scambio continuo sia di film che di ospiti, che ogni anno diciamo, si intercambiano tra Buenos Aires e Napoli su quest'asse diciamo del sud del mondo, va. Allora, la vostra proposta cosa prevede? Quante sono le opere che state proiettando all'interno del festival? Noi abbiamo 2 sezioni di concorso, una riservata ai cortometraggi e una al cinema documentario. Quest'anno abbiamo avuto oltre 100 opere iscritte alla selezione, alla fine il comitato interno di selezione ne ha prese 23, 13 documentari e 10 cortometraggi. Che cercano di offrire un po' una panoramica su una serie di argomenti attuali, andiamo dalle questioni del lavoro, dell'immigrazione e dell'integrazione fino ad arrivare alle recenti rivoluzioni in atto nella Nord Africa e nel Medio Oriente, quindi cerchiamo di essere lì sul momento, sull'attualità, sono opere ovviamente che appartengono a un certo tipo di cinema indipendente, fuori un po' dai circuiti commerciali, e quindi il nostro tentativo è non solo valorizzare questo tipo di cinema, ma anche poi spesso i giovani autori che cercano di portare all'attenzione di molti degli argomenti importanti. Quindi opere che proietti un po' da tutto il mondo, questo è il festival? Sì, sì, sì, abbiamo sul cinema documentario abbiamo Africa, Europa, Sud America, Asia, diciamo, c'è di tutto veramente. Quest'anno c'è stata una risposta incredibile, siamo molto contenti, non solo per il livello che sono tecnico e artistico che è decisamente elevato, ma anche poi per veramente la panoramica globale che siamo riusciti ad offrire con la selezione dei film. Oh Antonio, visto che noi come trasmissione ci occupiamo in particolare di documentari italiani, rispetto alle opere che proporrete, cosa ci puoi dire in proposito? Abbiamo, diciamo che gli autori sono la maggior parte italiani. Sì. E abbiamo delle opere, due opere su Napoli, una che racconta un po' la vita di Scampia, che è Resistenza. Sì, sì, abbiamo parlato poco fa proprio con Francesco Cavaliere per il suo documentario. E che cerca di portare l'attenzione un po' la parte positiva, no? Spesso si associa a Scampia, Secondigliano e le periferie di Napoli al degrado, alla criminalità, alla camorra. Invece quell'opera merita attenzione perché sicuramente cerca di dare voce a chi si impegna e si sacrifica quotidianamente. E al di là delle due opere napoletane, poi abbiamo una serie di altre opere italiane che insistono molto sul tema dell'integrazione. Sì. Si vede che è un argomento, qualcosa che la gente sente in maniera forte e che evidentemente presenta delle soluzioni che non vanno bene, che non possono essere accettate, e quindi i documentaristi italiani hanno una spinta particolare verso questo argomento. E nel festival, ti dico, sono arrivate un terzo delle opere praticamente parlavano di questo, e quindi poi in concorso abbiamo 3-4 di queste opere che affrontano da diversi aspetti, da diverse angolazioni la tematica. Oh Antonio, in chiusura, per chi volesse saperne di più sul vostro programma, ci dai riferimenti internet? Abbiamo il nostro sito che è www.cinenapolidiritti.com. E poi vabbè, siamo anche su tutti i social network, quindi su Facebook, su Twitter, con un'attività di promozione costante e continua. E il festival si concluderà sabato con una serata finale dedicata alla Calabria, all'esperienza di Riace, con ospite il sindaco Mimmo Lucano, che ci racconterà un po' la sua storia di vita, e ovviamente poi con la premiazione finale di tutti i film vincitori delle sezioni di concorso. Allora, un buon proseguimento, un abbraccio e a risentirci presto. Un saluto affettuoso a tutti voi, a presto. Ciao Antonio, ciao. Ciao. Antonio Borrelli del comitato di selezione della quarta edizione del Festival del Cinema dei Diritti Umani a Napoli, in corso dal cominciato l'8 e andrà avanti fino a sabato 19 novembre. È tutto per Visionari, vi rimando per tutte le informazioni al sito della radio www.ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, lì troverete gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di domani venerdì 18 novembre, i nostri suggerimenti sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per la settimana sul piccolo schermo, gli appuntamenti della settimana, il link per ascoltare la puntata precedente, leggere interviste e recensioni. Ci sentiamo giovedì prossimo, sempre dalle 14 alle 15. Buon proseguimento.